ascolti dalla su, ci pensi, ci guardi e sorridi. Portiamo avanti il tuo obiettivo di arrivare primi. Non hai lottato, lo so che ti sei lasciato andare. C'è mio padre che sta male, non smette di pregare. Per te, per ciò che sei, per noi, per ciò che vuoi. Se in questa vita combattiamo, siamo tutti eroi. Ma questi parlano come se t'avessero amato, come avessero passato tutto quello che hai questo passato. Questo è per te, sai, che non parliamo mai, che non ci sei più ormai, ucciso da tuoi guai. Ma come stai? Che cosa fai? Ci stai guardando dall'alto, ridendo con quel sorriso che c'hai. Non l'hai levato, ridevi beato e con tutti i problemi. Facemi invidia a sto mondo, ma preso per stronzo soltanto per quello che eri. Se pensi a ieri, ricordi l'amore prima di partire. Solo il lieto fine, vedere il tuo volto pensando a qualcosa che probabilmente ti aiuta ad uscire. Fai le valigie, saluta il tuo amore, percorri il salone ed arriva alla porta. Se prima di farlo prometti che vi rivedete ancora per un'altra volta. Ma è una sostanza incontrata lontano da lei che ha cambiato il tuo modo di vivere. Non c'ho parole ogni volta che pensa al tuo volto, ma ti voglio scrivere. Non puoi decidere questo destino, eri solo un bambino nei panni di un grande. Non avresti mai pensato che sarebbe stata la merda lasciarti in mutande. Con il fruscellanto del lavandino davanti allo specchio fai mille domande. Sei diventato più piccolo, nessuno svincolo, la voglia è sempre gigante. Ci ascolti da lassù, ci pensi, ci guardi e sorridi. Portiamo avanti il tuo obiettivo di arrivare primi. Non hai lottato, lo so che ti sei lasciato andare. C'è mio padre che sta male, non smette di pregare. Per te, per ciò che sei, per noi, per ciò che vuoi. Se in questa vita combattiamo, siamo tutti eroi. Mo questi parlano come se t'avessero amato, come avessero passato tutto quello che hai passato. Un giorno hai preso e hai detto, io vivo come voglio. Troppo sincero e per mettere da parte l'orgoglio. Quasi vivevi per lei senza via di fuga. Sentirai questa canzone ed una lacrima si asciuga. Sei in mezzo al cielo, tra le stelle, quelle più belle. Sotto la pelle, stesso sangue scorre, stesso ribelle. Quasi per caso ti ho incontrato dentro un sogno questa notte. Mi dicevi già tuo padre che deve essere più forte. So quante volte ci hai provato a dimenticare, ad essere normale. Chi non capisce dovrebbe stare solo zitto piuttosto che stare a parlare. Poi ripetevi cambiare, senza capirne il significato. Davvero speravo uscissi dal giro di merda in cui ti hanno incastrato. Le lettere che ci scrivevi da dentro la cella, ogni parola bella. La vita, fratello, non è una partitella. Anche se è troppo piccola può essere quella. È troppo corta, prendi la storta, cadi e rimani dentro quel burrone. Se sono triste che mi trovi a dirti che contano i fatti e non le parole. Ci ascolti dall'assù, ci pensi, ci guardi e sorridi. Portiamo avanti il tuo obiettivo di arrivare primi. Non hai lottato, lo so che ti sei lasciato andare. C'è mio padre che sta male, non smette di pregare.